Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e ben ritrovati a Radio Doc. In occasione del 130esimo anniversario della sua nascita, vi proponiamo un radiodocumentario sulle incredibili scoperte di Albert Einstein. Vi segnaliamo che la versione integrale di questo documentario andrà in onda su History Channel oggi alle 23. Nel 1900 Einstein è uno studente di 21 anni del Politecnico Federale di Zurigo. I suoi professori non immaginano neanche lontanamente che il nome di quel giovane un giorno sarebbe diventato sinonimo di genio. Come racconta Mikio Kaku, autore del libro Fisica dell'impossibile, Einstein non era proprio quello che siamo soliti chiamare un alunno modello. Saltava alle lezioni, i professori lo ritenevano uno scansafatiche. Di conseguenza non riuscì ad ottenere nessun incarico all'università dopo la laurea. Gli venne in mente persino di cambiare ambito e mettersi a vendere assicurazioni. Ve l'immaginate? Un giorno aprite la porta e vi trovate davanti Einstein che vi vende una polizza sulla vita. Che perdita sarebbe stata. Si considerava un perdente. Una volta in una lettera alla sua famiglia scrisse che sarebbe stato meglio se non fosse mai nato. Nessuno allora parlava del giovane Albert Einstein. Suo padre morì con la convinzione che il giovane Albert fosse la pecora nera della famiglia. Nel 1902, depresso e abbattuto, Albert si trasferisce a Berna, la capitale della Confederazione Svizzera, e inizia una carriera molto lontana dalla scienza. Mikio Kaku, autore del libro Fisica dell'impossibile. Un suo amico riuscì a trovargli un lavoro come modesto impiegato all'ufficio federale brevetti di Berna. In questo ufficio al terzo piano, Einstein passa 6 giorni ogni settimana ad analizzare le richieste di brevetto che inventori di ogni genere sottopongono al governo svizzero. Quando arrivava un brevetto, il suo compito era di verificarne la validità attraverso gli opportuni calcoli. Essendo un fisico, non aveva problemi e se la sbrigava rapidamente con ogni tipo di brevetto che doveva analizzare. Le fantasticherie di Einstein cambieranno profondamente la nostra comprensione dell'universo. Nel 1905, in quello che è stato poi chiamato il suo Annus Mirabilis, nel tempo libero, Einstein pubblica 4 scritti visionari. Il primo risponde all'antica domanda: cos'è la luce? L'effetto fotoelettrico. Quel raggio, scritto da un perfetto sconosciuto, dimostrava che la luce è composta da particelle chiamate fotoni. Noi ora usiamo questa teoria per costruire i televisori, per i laser. In un altro articolo, il 26enne Einstein postula un assunto che noi oggi diamo per scontato: l'esistenza degli atomi. Nessuno in quell'epoca credeva agli atomi, ma lui dimostrò che gli atomi sono in grado di far muovere delle piccole particelle di polvere in un liquido e calcolò anche le dimensioni degli atomi. Questi scritti sarebbero sufficienti a garantirgli una brillante carriera nel campo della fisica, ma Einstein non ha ancora finito. In un altro saggio dello stesso anno apparve la famosa equazione E uguale mc al quadrato. Semplificando al massimo, la formula stabilisce che l'energia può diventare materia e che la materia può diventare energia. La più piccola quantità di massa contiene potenzialmente un'enorme quantità di energia. Per liberarla è necessaria una reazione nucleare, come quella che si verifica nelle stelle. Dall'inizio dei tempi, guardando il cielo, gli studiosi si sono sempre chiesti cos'è che fa brillare le stelle. Ma bisognò aspettare Albert Einstein per rispondere alla domanda. La massa M si trasforma in E, energia. È questo il motore che illumina le stelle. Oggi E uguale mc al quadrato è l'equazione più famosa di Einstein. Ma un'altra sua teoria, pubblicata nello stesso anno, è più importante e più controversa. La teoria della relatività ristretta. Da ragazzo, Einstein si divertiva ad immaginare come sarebbe stato cavalcare un raggio di luce. Da adulto, torna a quella fantasticheria e cambia la sua vita. Nella primavera del 1905, Einstein era su un autobus e guardò alle sue spalle la famosa torre dell'orologio che domina Berna. E si chiese cosa succederebbe se quest'autobus viaggiasse alla velocità della luce. Einstein guarda indietro alla torre dell'orologio e intuisce qualcosa di sconvolgente. Raggiungendo la velocità della luce, le lancette dell'orologio resterebbero immobili nel tempo. Einstein sa che alla torre dell'orologio il tempo trascorre normalmente. Ma immaginando che l'autobus raggiunga la velocità della luce, la luce dell'orologio non può più raggiungerlo. Più velocemente l'autobus si sposta nello spazio, più lentamente si muove nel tempo. Questa intuizione segna l'inizio della nascita della teoria della relatività ristretta o speciale, secondo la quale lo spazio e il tempo sono profondamente collegati. Infatti, costituiscono un insieme indissolubile, un tessuto flessibile che si chiama spazio-tempo. Su quell'autobus urbano, Einstein ritiene di aver colto un segreto dell'universo. Nel 1907, Einstein accetta di scrivere un nuovo articolo che spieghi la teoria della relatività ristretta, ma quando la riprende in esame, si accorge che essa è molto limitata. La teoria della relatività ristretta può essere applicata in un solo caso, un oggetto che si muove in una sola direzione a velocità costante. Ma Einstein vuole comprendere il mondo reale, e il mondo reale non funziona in questo modo. Ancora, Michio Kaku. Einstein capì che la sua teoria non si applicava ai corpi in accelerazione, ma nel nostro universo ogni cosa accelera. Una macchina su una strada, un jet, un veicolo in autostrada, tutto accelera. Per cui la relatività ristretta non funzionava. Nel viaggio immaginario di Einstein, se la velocità varia, la sua teoria sul comportamento della massa nello spazio e nel tempo si sgretola. Einstein sa che per funzionare, la sua teoria deve tener conto di ogni elemento nell'universo e quindi anche della pervasiva e invisibile forza che tiene insieme la materia. La gravità. La gravità è dappertutto. La gravità ci mantiene saldi a terra, tiene insieme il Sole, il sistema solare. E dov'era la gravità nella teoria della relatività ristretta? Einstein vuole che la sua teoria della relatività ristretta diventi una teoria della relatività generale. Una teoria in grado di spiegare non solo il tempo, ma anche la forza di gravità. Ma comprende che questo significa andare contro più di due secoli di pensiero scientifico e contro il suo eroe, Sir Isaac Newton. Newton sosteneva che se un oggetto cade è perché c'è una misteriosa forza, chiamata gravità, che lo spinge verso il basso. Ma lo stesso Isaac Newton non era soddisfatto della sua teoria. Gli oggetti si muovono perché vengono spinti, non attratti. Sono spinti. Ma cos'è che spinge questo? Newton non lo sapeva. E così semplicemente alzò le mani e ammise di non saperlo. Inventò un concetto che chiamò attrazione gravitazionale. Ma Einstein disse che quella teoria era errata. Einstein guardava fuori dalla finestra del suo ufficio. Immaginò che un uomo stesse lavorando sul tetto e iniziò a pensare a cosa sarebbe accaduto se quell'uomo fosse caduto da quell'altezza. Ed ebbe l'intuizione più felice della sua vita, la rivelazione del secolo. Pensò, un oggetto in un sistema in caduta libera non avverte il proprio peso. L'uomo in quel caso diventerebbe senza peso. Immaginiamo che io sia un ascensore e che qualcuno tagliasse le corde che lo tengono. Cosa succederebbe? Cadrei. Ma se l'ascensore precipitasse alla mia stessa velocità, io resterei sospeso a mezz'aria dentro la cabina. Einstein comprese questo. Perché la Terra gira intorno al Sole? Molti rispondono che è la forza di gravità che attira la Terra verso il Sole in un'orbita circolare. Sbagliato. La Terra gira intorno al Sole perché il Sole deforma lo spazio intorno alla Terra. E lo spazio spinge la Terra verso il Sole. Einstein pubblica le sue teorie sulla gravità. Nello stesso periodo, il suo lavoro sull'atomo è oggetto di molta attenzione. Di conseguenza, nel 1911 gli viene offerto un incarico di ricercatore a tempo pieno all'Università di Zurigo. Il 32enne impiegato dei brevetti lascia finalmente Berna per diventare per la prima volta il professor Albert Einstein. Le lezioni di Einstein sono sulla bocca dell'Europa scientifica. Albert viene invitato a parlare a Berlino, capitale del paese in cui è nato. Einstein lascia la Germania quando ha 15 anni per evitare il servizio di leva. L'anno successivo rinuncia alla cittadinanza tedesca. Einstein andò a Berlino principalmente per visitare dei colleghi, ma un giorno venne invitato da una sua parente. Elsa era una donna sola, divorziata e con due figlie. Amavano la reciproca compagnia, facevano lunghe passeggiate, guardavano le barche. Einstein rimase affascinato da lei. Quando tornò a Zurigo, si scambiarono delle appassionate lettere d'amore. Sentiva che era una situazione troppo complicata da gestire, anche per Albert Einstein. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario. I misteri dell'universo continuano a tormentare Albert Einstein. il fisico tedesco sta cercando di sviluppare la sua teoria della relatività da più di 4 anni. Sa di essere sulla strada giusta, ma deve ancora trovare il modo di dimostrarla. Nel 1912, Einstein ritiene di essere sul punto di dimostrare la sua controversa e sconvolgente teoria. All'improvviso gli viene un'idea. Se riuscirà a produrre un raggio di luce in un'area in cui lo spazio è curvo, secondo la sua teoria, anche il raggio di luce apparirà curvo. Cosa poteva avere gravità sufficiente da curvare la luce? Beh, il Sole, per esempio. 300.000 volte più grande della Terra, il Sole è un oggetto perfetto per l'esperimento di Einstein. Daniel Kenelfick, astronomo. Scrisse ai più noti astronomi cercando di interessarli alla sua teoria, ma rimase un po' scoraggiato, credo, perché scoprì che gli astronomi sono persone molto occupate, con molte cose da fare, che non possono lasciare tutto per uno studioso che gli propone un test, nemmeno se si tratta di Einstein. Per Einstein è un'amara delusione. Ma qualche tempo dopo, all'osservatorio di Berlino, un giovane assistente risponde al suo appello. Si tratta di un giovane appassionato e sfrontato, disposto ad andare letteralmente in capo al mondo per Einstein. Il suo nome è Erwin Fielding Freundlich. Nell'aprile 1914, il futuro di Einstein appare più luminoso. Amir Akzel, autore di L'equazione di Dio. Freundlich e i suoi due collaboratori stavano per lasciare Berlino. Einstein era lì per salutarli ed era molto nervoso. Freundlich e due suoi colleghi trasportano la sofisticata attrezzatura in loro possesso in un viaggio lungo e insidioso. Stavano per partire con un treno diretto in Crimea, nell'allora territorio russo. Freundlich e Campbell si accampano in punti diversi per avere maggiori possibilità di trovare bel tempo e scattare buone fotografie. Il gruppo di Freundlich si stabilisce nella Crimea sud-orientale. Campbell invece si insidia vicino Kiev. Sono entrambi determinati, nonostante le spaventose voci di un'imminente guerra mondiale. E poi il peggio accade. Il 28 giugno 1914, l'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria viene assassinato. L'imperatore tedesco dichiara guerra alla Russia. La spedizione di Einstein per l'eclissi è a rischio. Einstein era preoccupato. Ma non ha modo di avvertire i suoi amici. Non sapeva cosa sarebbe accaduto. Nel cuore dei boschi della Crimea, la guerra arriva fino all'accampamento di Freundlich. Freundlich vide degli ufficiali russi arrivare al suo accampamento e chiedergli i documenti. Il suo cuore batteva all'impazzata. I russi buttarono a terra l'attrezzatura. Freundlich urlò che doveva fotografare l'eclissi, ma gli risposero che il suo paese aveva dichiarato guerra a loro e che non doveva dire niente. Herr Freundlich, lei è ora prigioniero di guerra. Lui rispose cosa? Campbell, che era americano, era neutrale e i russi gli consentirono di continuare ad osservare l'eclissi. Avevano fatto tutta quella strada, speso tutti quei soldi, erano scampati allo scoppio della guerra, ma furono le nuvole a rovinare la loro eclissi. Fu un fallimento totale. Non solo Campbell non riesce a scattare le sue fotografie, ma gli viene anche sequestrata tutta l'attrezzatura. Essendo americano, Campbell non viene arrestato, ma torna a casa da uomo sconfitto. Einstein a Berlino è distrutto. Le spedizioni sono state un fallimento. Freundlich e la sua squadra trascorrono svariati mesi in Russia come prigionieri di guerra. Per Einstein è un disastro. La prova della sua teoria più rivoluzionaria, la relatività generale, gli è sfuggita tra le mani. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale determina il fallimento della spedizione in Russia per osservare l'eclissi e minaccia di ostacolare per molto tempo la verifica della teoria della relatività alla quale Einstein lavora da anni. Dopo quasi un decennio di studio, la teoria della relatività generale è lungi dall'essere provata. I calcoli sono inesatti e senza i giusti calcoli la teoria non può essere dimostrata. Jeffrey Krellenstein, autore di The Race to Test Relativity. Nell'autunno del 1915 Einstein non pensava a nient'altro. Era tutto concentrato nel trovare la soluzione a un enigma che lo aveva tenuto occupato per più di 8 anni. Analizzando i suoi appunti, notiamo molti errori e tentativi fallimentari. Einstein non era uno di quei matematici che scrivevano delle formule ordinate su un foglio. Dappertutto vediamo cancellature e calcoli senza senso. È la dimostrazione che Einstein sembrava parlare con la matematica. A volte prendeva i suoi appunti e li scagliava via con disgusto. Può essere un vero disastro quando un'idea sulla quale stai lavorando non dà risultati. Ti distrugge. Accortosi dei suoi errori di calcolo, Einstein compie dei progressi. Dopo qualche tempo, le sue equazioni sono quasi complete. Accetta così di parlare all'Università di Göttingen, una prova generale per l'Accademia di Prussia. Tra il pubblico c'è uno dei più grandi matematici di tutti i tempi, David Hilbert. Clifford Johnson, University of Southern Carolina. All'improvviso si rese conto che i risultati ottenuti nell'ultimo periodo sembravano puntare tutti nella stessa direzione. Einstein si ricordò di una soluzione alquanto improbabile, che aveva maturato già nel 1912, ma che aveva scartato perché gli sembrava troppo strana da un punto di vista fisico, troppo inaccettabile. Ma dopo aver tentato tutte le altre alternative, pensò di andare a recuperare proprio quella equazione. Tornò ad un'equazione che aveva elaborato e scartato 3 anni prima. La soluzione era nel cassetto. L'equazione che un tempo aveva scartato ora gli pareva più promettente ed esatta di quanto gli era sembrato nell'inverno del 1912. Einstein si entusiasma quando comprende che la risposta alla sua nuova teoria può essere trovata in un vecchio enigma astronomico. Walter Isaacson, autore di Einstein e il suo universo. Einstein rivolse la sua attenzione a un mistero che tormentava gli astronomi da secoli. Secondo Isaac Newton, il pianeta Mercurio avrebbe dovuto girare intorno al Sole con un'orbita circolare, ma si è verificato che l'orbita di Mercurio non rispondeva alle leggi del moto newtoniane, era soggetta a variazioni. Quindi l'orbita, invece di fare così, ha delle perturbazioni e segue una traiettoria ellittica, simile al petalo di un fiore. Einstein si rende conto che le sue intuizioni sulla gravità potrebbero spiegare l'orbita di Mercurio, lì dove le leggi di Newton non bastano. Newton si era sbagliato? Einstein pensò, forse risponde alla mia teoria della gravità, e si apprestò ad effettuare le verifiche necessarie. Calcolò con enorme fatica l'orbita di Mercurio e si accorse che c'era una corrispondenza quasi perfetta con la sua formula. L'equazione che aveva scartato era quella che spiegava il movimento dei corpi celesti nello spazio. Iniziò ad avere le palpitazioni e all'improvviso capì che la sua teoria era esatta. Era fuori di sé dalla gioia, non riusciva più a concentrarsi. Era un evento eccezionale. Trovò l'equazione quasi contemporaneamente a David Hilbert. E il dibattito è ancora aperto su chi sia stato il primo. Einstein non avrebbe sopportato di perdere quel riconoscimento. Hilbert fu molto leale. Disse che l'equazione era di Einstein e che tutto il merito era suo. Fu lui a vincere. La teoria era di Einstein. Il 25 novembre 1915, un Albert Einstein trionfante ha tra le mani quella che ritiene l'equazione finale della sua teoria della relatività generale. Una nuova teoria della forza di gravità, appena in tempo per la presentazione all'Accademia di Prussia. Amir Akzel, autore di L'equazione di Dio. Arrivò all'Accademia e parlò. Il suo intervento fu piuttosto breve. Enunciò la teoria generale della relatività, la quale descrive in che modo lo spazio e il tempo influenzano la massa e l'energia e come la massa e l'energia modificano l'aspetto dello spazio e del tempo. Era una visione profondamente nuova della composizione dell'universo e fu accolta trionfalmente. La storia dello scienziato che da solo sconvolse il mondo appassiona ancora tutti. Rintanato nel suo studio, con la sua sola intelligenza e una matita, Einstein fece delle scoperte rivoluzionarie che furono accolte nel delirio, come una canzone o un film di successo. La gente ama il mistero, e Einstein lo sapeva. Le sue teorie parlavano della quarta dimensione, della curvatura dello spazio, della distorsione del tempo. Era fantastico. Diceva che la luce si muove in modo nuovo. Erano idee romantiche che sconvolsero la vita della gente. C'era una bellissima componente popolare in quelle sue teorie. Aveva prodotto un nuovo sistema di pensiero. Era riuscita a combinare degli elementi dell'universo che nessuno avrebbe mai immaginato potessero stare insieme. La teoria della relatività generale è uno dei vertici più elevati toccati dall'uomo. Se ci pensiamo, tutta l'era moderna L'era dei raggi laser, delle telecomunicazioni, dei satelliti è stata resa possibile solo grazie all'opera di Albert Einstein. Ad esempio, i buchi neri, le stelle di neutroni e lo stesso Big Bang non si sarebbero potuti studiare e descrivere senza la teoria della relatività generale di Einstein. Era un lavoro bellissimo, semplice e profondo. Tutte le migliori teorie sull'universo sono così. Einstein muore nel 1955 all'età di 76 anni. Ma più di mezzo secolo dopo, quell'uomo e le sue teorie continuano ad affascinare l'immaginario popolare e a essere fonte di ispirazione. Era un uomo che solo grazie al potere del suo intelletto, alla tenacia della sua intelligenza, riuscì ad emanciparsi dalla povertà, a superare la guerra e a diventare una delle figure più grandi della storia dell'umanità. E questo è un grande esempio per tutti noi, perché ci fa capire che non è necessario nascere belli o ricchi, che non è quella la cosa importante. Ogni obiettivo può essere raggiunto con il solo esercizio della propria intelligenza. La sua figura costituisce un insegnamento per ognuno di noi. Vi segnaliamo che la versione integrale di questo documentario andrà in onda su History Channel oggi alle 23. Un ringraziamento in redazione a Daniele Casagrande. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.